Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, noi ci siamo pronti in regia Peter Bescapè, in redazione Laura Vanossi e subito il nostro sommario. Le macchie della pelle non sono tutte uguali. Impariamo a distinguerle partendo dal colore. Bisturi, uscita di sicurezza per il tunnel carpale. Rosmarino, un aiuto naturale per ritrovare la carica. Bianche, rosse, nere o color caffè latte, piane oppure in rilievo, lisce e regolari, singoli e multiple. Oggi parliamo delle macchie cutanee. Chi è senza macchia non si scomodi a lanciare pietre, invece invito chi le macchie le ha e ne vuole parlare con i nostri esperti a chiamare subito il nostro numero verde 800 24 0024 oppure a mandarci un messaggio al 349 238 6666. A nostra disposizione oggi il professor Giampiero Girolomoni, direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venerologia dell'Università di Verona. Professore, bentornato finalmente. Buongiorno. E in linea con noi abbiamo anche la dottoressa Nicole Del Giglio, dermatologa ricercatore all'Università di Verona presso la Clinica Dermatologica. Professore, partiamo dal colore e io direi, se lei è d'accordo, di parlare di partire da quelle macchie che noi chiamiamo macchie di vino, quelle rosse. Che cosa sono? Quelle sono delle malformazioni vascolari. Il concetto è una persistenza eccessiva dopo la vita fetale, sì, della circolazione fetale, che la circolazione, i vasi sanguigni nella pelle si modificano sostanzialmente durante la vita dell'entroutero e dopo la vita, diciamo, quando uno nasce. E una persistenza eccessiva della circolazione fetale causa queste macchie di vino. Macchie di vino di porto si chiamerebbero in inglese, port wine stain, però il termine preciso sono malformazioni vascolari, sono lesioni che a volte persistono e si accentuano, altre volte scompaiono col progredire dell'età. Quindi nei primi anni di vita del bambino di solito tendono a scomparire? Scompaiono quelle che sono generalmente sulla linea mediana. In che senso? Cosa vuol dire, professore? Se lei prende una persona e la taglia a metà? Taglia a metà, sì, nel punto di taglio, quella è la linea mediana, diciamo, quelle tendono a scomparire. Per esempio è comune osservare queste macchie nella fronte, al centro, quelle scompaiono. Quindi a seconda di dove sono localizzate possiamo già anche noi prevedere se andranno via oppure se resteranno. Esatto, scompaiono tutte meno che in una sede. Quale? La nuca. Infatti se lei guarda le persone, molte persone. Sto cercando di vedere la nuca di Peter Bescapè ma non riesco. Sì? Sotto i capelli hanno questa macchia che si chiama macchia salmone, perché ha un colore, non è il colore del vino rosso, ma è un colore salmone, diciamo. Quella persiste invece, ma siccome è nascosta dai capelli di solito non ci si fa caso. Certo. Quindi passa inosservata. Dottoressa Del Giglio, ma le macchie possono avere anche colori più tenui? Ci sono macchie gialle, macchie color caffè latte. Il colore ci dice qualche cosa? Sicuramente, intanto colgo l'occasione per salutarla e ringraziarvi dell'invito. Allora, posso dire che ci sono tantissime macchie di tanti colori e non è sempre facile capire dal colore di che cosa si tratta, anche se ci può dare un'indicazione. Ci sono delle macchie, diciamo le classiche lentiggini, che tutti quanti bene o male conosciamo, che sono delle macchie che possono avere un colorito bruno, anche molto più scuro, e che tendono ad essere sempre presenti e a volte tendono anche ad essere legate al fatto che una persona ha preso molto sole. Per esempio, che si vede in persone che sono state abituate appunto ad esporsi tanto al sole, hanno la schiena con moltissime lentiggini, diversamente dalle cosiddette felidi, che invece hanno un colorito più rosato, più chiaro, sono tipiche delle persone con gli occhi azzurri, per esempio, compaiono sul viso e sono accentuate dall'esposizione al sole. Certo, e sono molto carine. Sono molto carine, esatto. Esatto. Poi esistono anche altre macchie che possono essere per esempio spie di una infezione cutanea, per esempio un'infezione da funghi, e in alcuni casi possono avere un colorito più salmone, però tendono ad essere multiple, oppure dopo l'esposizione al sole tendono ad avere una colorazione molto più chiara, a perdere la colorazione, quindi rimangono come delle macule, noi le definiamo ipocromiche. Le macchie bianche, dottoressa. Le macchie bianche. Di solito noi pensiamo ad una micosi, ma a volte può anche trattarsi di altra, ad esempio di vitiligine, soprattutto se sono grandi. Certo, ma c'è poi anche l'occhio esperto che deve valutare, perché si passa proprio da un argomento ad un altro, e quindi sono proprio vari aspetti, ma di una colorazione diversa, ma che denota un'origine completamente diversa. La micosi non ha nulla a che fare con la vitiligine. Certo, e noi cercheremo di farci aiutare anche dai nostri ascoltatori, a cui chiediamo di descriverci un po' le loro macchie. Naturalmente, professore, parleremo anche di nei. È ancora valida la regola dell'alfabeto, così la ricordiamo ai nostri ascoltatori, che possono utilizzarla come una sorta di autotest, professore? Sì, è sempre più valida. La ricordiamo? Che esistono studi ulteriori che confermano l'utilità di questa regola. La regola è che un neo è ABCDE. Sì. L'A vuol dire una lesione asimmetrica. Sì. B con i bordi regolari. Sì. Di colore scuro o comunque disomogeneo. Mm. Di dimensioni superiori al mezzo millimetro. E la E, che è la più importante, è una lesione in movimento, cioè che è evoluta e che si è trasformata in un tempo relativamente breve, che vuol dire di alcune settimane o pochi mesi. La regola è suggestiva con l'acronimo ABCDE. La cosa importante è tenere presente qualsiasi lesione scura, pigmentata, sì, che si sia modificata nel tempo, perché cogliere effettivamente la simmetria, i bordi regolari, per un occhio inesperto può essere, cioè tutte sono asimmetriche con i bordi regolari, volendo, capito? Sì, quindi è più difficile, ci vuole l'occhio del dermatologo. Quando si parla di regolarità, di asimmetria, sono certo, asimmetrie molto evidenti, però quello che conta è che una lesione che sia cambiata. Sì. Direi che è il criterio più rilevante. Quindi noi ai nostri amici da casa possiamo dire: se avete delle lesioni sulla pelle, delle macchie che si sono modificate, questa regola dei nei possiamo applicarla anche alle altre macchie in generale, anche a quelle scure, color, non solo scure, ma anche a quelle color caffè latte, gialle, di altri colori? No. No, solo no, per i nei. Nel senso che le altre macchie, come le lentiggini, o altre cose, sono lesioni estremamente stabili. Una volta che sono insorte rimangono tali per e non si muovono più. E non si muovono più per mesi, per anni. Mm. Quindi, se avete un neo e se è modificato, non guardate intanto i bordi, eccetera. Poi di questo ne parleremo, ma ci penserà il vostro dermatologo. Chiamateci 824 0024, ma chiamateci anche per descrivere le vostre macchie. Ma io, come sempre, chiedo ai miei esperti se hanno bisogno di indicazioni ulteriori per, non dico, non si fa diagnosi assolutamente, ma per dare consigli mirati. Dottoressa Del Giglio, a lei cosa piacerebbe sapere dai nostri ascoltatori? Naturalmente riguarda le loro macchie. Riguardo alle loro macchie, è molto importante la sede in cui compaiono queste macchie. Se per esempio sono delle macchie che possono svilupparsi sul volto, spesso nelle donne, sì, oppure anche il tipo di colorazione delle macchie, se le persone assumono dei farmaci o meno, se per esempio prima della comparsa di queste macchie scure la pelle faceva prurito o c'erano delle lesioni che noi definiamo, diciamo, infiammatorie, se fanno dei lavori particolari, se hanno avuto dei, diciamo, traumatismi, o comunque se di salute generale stanno bene. Insomma, di voi vogliamo sapere tutto. Tutto. E intanto io voglio subito rispondere a due mail che sono arrivate. Ieri avevamo lanciato la puntata e ve le leggo. Sono molto preoccupata. Circa un mese fa ho preso il morbillo, ci scrive Patrizia. Sono stata malissimo. E mi devo allarmare, ho ancora il corpo pieno di macchie scure. Mi è stato detto che ci vuole molto tempo e pazienza. È vero, professore? È vero? Deve stare tranquilla? Chi c'è il morbillo di questi tempi? Però cioè, Patrizia è riuscita a prenderlo, e poi da adulti è terribile. Ma cioè, io metterei dubbio questo, perché il morbillo è attualmente una malattia molto rara. Il morbillo, voglio dire, il morbillo è una diagnosi complessa adesso, come oggi. Tuttavia, il morbillo in sé, sì, dà delle papuline, cioè delle lesioni, non sono macchie, ma sono in rilievo. Uno sente una specie di punteggiatura in rilievo sulla pelle. Sì. Poi le lesioni vanno via e si risolvono abbastanza rapidamente. Forse la signora non ha sofferto di morbillo, ma magari di una reazione da farmaci che assomiglia al morbillo. Insomma, stiamo mettendo anche in discussione la diagnosi, ma Patrizia, stiamo a quello che ci racconta Patrizia. Dice il morbillo cosa deve fare? Evitare di prendere il sole, perché queste macchioline... Deve evitare di prendere poco sole e la malattia, se è quella, scompare da solo progressivamente, senza problemi. Allora, invece, alla dottoressa voglio leggere la mail di Daniela, 60 anni, ho sempre preso il sole con scarsa protezione. Ora ho tante piccole macchie scure nel contorno del viso, fronte e guancia. Il laser potrebbe rimuoverle? Esistono creme in grado di attenuarle sul serio? Su questo aspetto torneremo, ma mi premeva dare già un'indicazione a Daniela. Allora, esistono sicuramente diversi tipi di laser a diverse lunghezze d'onda che possono essere utilizzati per questo tipo di trattamento. Sì. È ovvio che deve essere valutato un attimino la cute della persona, perché al di là del laser si possono fare dei trattamenti che possono essere fatti con delle creme oppure dei trattamenti, noi li definiamo chimici, cioè dei peeling, che possono anche in questo caso dare dei buoni risultati, tenendo presente che il trattamento dell'alterazione della pigmentazione è un trattamento molto molto difficile. E quindi tutti i risultati, cioè non si può avere un risultato certo a priori e sapere qual è il trattamento migliore, se non vedendo e valutando molto bene la signora. 800 24 0024, il professor Girolomoni e la dottoressa Del Giglio rimangono con noi, quindi direi è bene approfittarne. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Una mela al giorno. C'è un nervo che corre nel braccio e che permette i movimenti e la sensibilità del pollice, dell'indice, del medio e in parte anche dell'anulare. È il nervo mediano. Se è messo alle strette iniziano i problemi. All'inizio farne le spese è il medio che inizia a formicolare, ma poi il disturbo coinvolge progressivamente le dita vicine. Lentamente i disturbi peggiorano e nei casi più gravi si può arrivare a non riuscire più a muovere il pollice e quindi ad afferrare gli oggetti. Questo è quello che può succedere a chi soffre di tunnel carpale, una patologia sicuramente in aumento. E di tunnel carpale parliamo col dottor Alberto Lazzerini, responsabile dell'unità operativa di chirurgia della mano di Humanitas. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Dottor Lazzerini, ma quali sono le mani più a rischio? Ci sono soggetti più predisposti? Assolutamente sì, è molto frequente che capiti in determinate persone, come ad esempio le donne in gravidanza o in stato di menopausa, o i diabetici o i malati di tiroide, ad esempio. Che cosa capita? Capita che questo nervo, per passare dall'avambraccio alla mano, dove termina, deve passare all'interno di un canale, e in questo canale ha pochissimo spazio, e questo poco spazio lo devi dividere con 9 tendini, per cui è abbastanza facile che questo spazio si riduca ulteriormente e il nervo ne fa le spese, perché soffre di questa compressione. Trascurare il problema, si rischia di avere un deficit permanente, anche grave, della funzione di questo nervo, che, come lei ha detto giustamente poc'anzi, consiste nel dare la sensibilità alle prime 3 dita, metà del quarto dito della mano, e ha anche una funzione motoria a livello del pollice nella mano. Per i nostri amici da casa che iniziano magari a confrontarsi con questi sintomi qualche giorno, qualche settimana, l'indicazione cosa può essere? Il riposo è un antinfiammatorio o bisogna subito andare a vedere di che cosa si tratta? Nelle fasi iniziali il riposo è l'antinfiammatorio tradizionale, come spesso prescrive anche il medico di famiglia, è sicuramente utile. Se poi dopo il problema persiste e non tende a risolversi spontaneamente, allora bisogna andare dal chirurgo della mano e cercare una diagnosi più approfondita ed eventualmente un trattamento. Andiamo dal chirurgo. Quali sono gli interventi che permettono di liberare il nervo e quindi evitargli questa sofferenza? La liberazione del nervo dal punto di vista chirurgico è un atto estremamente semplice, consiste nel tagliare un legamento che chiude questo canale, il canale si apre e il nervo non è più compresso. Poi questo può essere eseguito con varie tecniche. Oggi negli ambienti di chirurgia della mano, più che non negli ambienti di ortopedia tradizionale, questo intervento viene eseguito con tecniche a bassissima invasività, anche a cielo chiuso, e consente recuperi molto rapidi dell'uso della mano. Quindi, dottore, quando lei dice recuperi molto rapidi, cosa significa? Che il giorno seguente posso già muovere la mano, che ho subito la sensibilità, o è giusto aspettare e fare riabilitazione? Allora, la ripresa della sensibilità dipende molto dal grado di compromissione prima dell'intervento. Per quanto quanto riguarda l'uso della mano è immediato. Subito dopo l'intervento il paziente viene invitato a muovere e, nei limiti di quanto consentito dalla presenza della medicazione, ad usare la mano per le operazioni elementari come vestirsi, mangiare e accudire la propria persona. Questo immediatamente dopo l'intervento. Dottor Lazzarini, la ringrazio per essere stato con noi, ci ha tranquillizzato. Ricordo che il tunnel carpale è il tema dello specialista del mese di Humanitas e quindi se avete domande da rivolgere agli esperti potete inviarle appunto all'Humanitas, troverete sicuramente risposta. Dottor Lazzarini, la saluto e la ringrazio, buona giornata. Grazie altrettanto a lei. Pronto soccorso. E noi torniamo ad occuparci delle nostre macchie, la loro comparsa, bene o male, sempre motivo di preoccupazione. 800 24 0024, a nostra disposizione due esperti, il professor Girolomoni e la dottoressa Nicole Del Giglio. Professor Girolomoni, noi abbiamo deciso di partire dal colore delle macchie, ma sicuramente, ma me lo dica lei, ci sono delle pelli che si macchiano più facilmente di altre. Penso alle pelli chiare, che non solo si arrossano, ma si segnano anche più facilmente. Lei che dice, professore? Non sono del tutto d'accordo. Perché? Se mi consente. Certo, è qua apposta. Nel senso di macchie, quando pensiamo alla macchia, in genere la gente pensa alle macchie brune, alle macchie scure. Sono le persone di colore scuro che diventano più scure, perché hanno di base una tendenza a fare una maggiore quantità di melanina per qualsiasi stimolo. Sì. Quindi le macchie scure del volto, per esempio quello che si chiama in gergo tecnico il melasma, quello che viene dopo la gravidanza, quello che viene con la pillola a volte, che sono macchie scure, brune, sugli zigomi, sì, nella zona del labbro superiore, quella è una macchia molto comune, quella è frequentissima, per esempio, nelle donne giapponesi, è molto più rara nelle donne norvegesi o scandinave in generale. Quindi è la pelle scura che tende a fare più, a lasciare esiti scuri o a fare tendenzialmente macchie iperpigmentate. Ma la pelle chiara ha più nei di solito? La pelle chiara tendenzialmente ha più nei, perché in quell'aspetto sì, questo è molto vero. Allora, io, professore, ho un'amica, per me è un'amica molto cara, che è una giornalista di grande professionalità, ahimè è anche molto bella, ha i capelli rossi, gli occhi verdi, la pelle chiara, insomma è la classica amica che non si dovrebbe presentare, no? Ad un fidanzato appena conosciuto. Abbiamo in linea con... Ciao Paola Saluzzi, molto, ciao, conduttrice di Sky TG24 pomeriggio, quindi la vediamo tutti i pomeriggi, è lì, bella e brava, brava da sentire, bella da vedere, e con la pelle chiara. Cosa ci fai con questa pelle così troppo bella? Allora, io sorvolo su tutti questi complimenti che fanno della mia pelle ormai una specie di peperone, perché divento rossa a proposito di colore della pelle. Cosa faccio con la pelle chiara? Intanto sono una felice rossa che porta con orgoglio le proprie lentiggini da sempre, quindi le lentiggini fin da bambina mi hanno accompagnato e continuano a esserci, molto piccole, molto delicate, molto carine. Poi la comparsa dei nei, sulla pelle chiara, ma i nei possono andare dappertutto effettivamente, certo, anche sulla pelle più scura, però sulla pelle chiara, poiché risaltano di più, sono soprattutto da seguire, ma questo vale per tutti, quindi io faccio ogni anno una mappatura dei nei e per esempio ne ho tolti sinora di quelli piccoli, piattissimi, perché così li ho, però diventati neri, quindi quando prendono quel colore un po' incarognito che ti fa preoccupare, onestamente li ho tolti, ecco, preferisco avere delle micro, che poi non si vedono, ma micro cicatrici addosso, che non portarmi a oltranza dei nei troppo presenti. Certo. E ho avuto sul volto qualche anno fa una macchia, alla quale devo dirti, Nicoletta, mi ero anche un po' affezionata alla fine, cioè, qualcosa su uno zigomo mi sembrava pure bella, e invece sentivo le truccatrici che mi dicevano dobbiamo coprirla, insomma non era una cosa gigante, anzi, e quindi ho finito per farla togliere con un'abrasione, con un laser, credo che fosse laser, insomma hai dovuto rinunciarci dopo le pressioni delle truccatrici. hai detto, me ne libero. Facevano proprio un fattore, diciamo, ne facevano una questione di carattere estetico. Io mi sono peritata sempre prima di sapere se fosse soprattutto un problema possibile di salute della pelle quella macchia. Non lo era, alla fine ha prevalso, diciamo così, la forma rispetto alla sostanza. Ecco, bisogna stare attenti, io la pelle la proteggo moltissimo. I fattori di protezione nelle creme vale per me anche d'inverno. Sì. E noto che facendo così, quando l'abbronzatura arriva d'estate, la pelle è effettivamente più bella. Sul viso, onestamente, Nicoletta, lo dico e sento anche il parere dei professori, io tendo a prendere il sole sempre di meno. Cioè cappelli che poi fanno molto snob, no? No, certo, guarda Paola, così hai conquistato, caso non ce n'era bisogno, ma il professor Girolomoni, che sull'esposizione solare sul viso, alle puntate che abbiamo fatto precedenti, è molto, no, proteggetevi il viso, adottate la giusta protezione, è un suo cavallo di battaglia come un po' di tutti i dermatologi. Professor Girolomoni, che voto diamo alla nostra amica Paola? Io gli darei 10 lode. Vabbè, diecelo, non perché lei faccia in generale. Ecco, faccia finta di non vederla, senta solamente quello che ha detto, non si faccia condizionare. 10 lode. Paola, che cosa devo dirti? Prendi 10 lodi anche dagli esperti di Essere Benessere? Ma c'è un motivo, Nicoletta, e sono costretta a dirlo. Io sono una fedelissima ascoltatrice di Essere Benessere, quindi il mio 10 lode nasce dal fatto, e qui sono viceversa assolutamente seria, che, lo ripeto, la tua trasmissione, condotta in maniera magistrale da te, preparata in maniera magistrale da te e dai tuoi collaboratori, permette di conoscere, di capire in materia di salute tanto, non diventando, come qualcuno viceversa insegna da altre parti stupidamente, medico fai da me, fai da te della propria salute, ma ascoltando degli specialisti a cui tu poni domande così chiare, così lineari e limpide, per cui uno alla fine finisce per imparare. Vedi? Lo dico di cuore questo. Allora, il 10 lode del professor Girolomoni a metà, 5 un quartino a te, 5 un quartino a me. Assolutamente, dividiamo da brave amiche, va bene? Brava, un abbraccio a Paola, grazie. Grazie a voi, grazie di cuore, continuo a seguirvi. Grazie. Siamo tornati insieme, oggi parliamo della nostra pelle, delle macchie, dei nei, macchie dell'età, macchie rosse, macchie di tutti i colori. Ma prima, come anticipato, andiamo all'Aquila. In linea con noi abbiamo il sottotenente di vascello Cosima Capone, psicologa della Marina, che si trova nel campo di Picenze. Buongiorno, sottotenente. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Sottotenente, dagli aquilani noi abbiamo tutto da imparare, stiamo imparando, perché gente forte, positiva, che va avanti, ma dietro questa grinta ci sono veramente tante storie, tanta fatica, tanta difficoltà, tanta voglia di andare avanti, ma non è sempre facile. Lei, che sta vivendo questa esperienza, offre supporto psicologico a 200 persone, no? Tra aquilani e operatori. Che cosa sta vedendo? E rispetto a delle esperienze precedenti in cui lei ha appunto lavorato come psicologa in situazioni comunque di grande difficoltà, che cosa nota? Sì, come dicevo giustamente, una grande reazione, grande carattere da parte degli abruzzesi in una situazione sicuramente segnata da una reazione acuta, dal stress iniziale, a cui si può reagire in tanti modi a seconda dell'età. Naturalmente bambini, adulti, anziani offrono uno scenario diverso con cui noi tecnici del settore possiamo lavorare in tanti modi. Con l'ascolto prima di tutto, accogliendo paure, timori, con la disponibilità, l'incoraggiamento e poi anche con lo stimolare una fiducia nel futuro che chiaramente si mette in atto in modo diverso con un adulto, l'anziano, con un bimbo. Con i bimbi per esempio giochiamo, si punta molto sulla fiaba, sul contatto con una realtà passata che adesso sembra un po' lontana. Certo, mentre con gli anziani, parlando prima della trasmissione con lei, mi diceva che per un anziano è molto pesante non avere più la propria casa, proprio anche perché il futuro sembra ancora più difficile, no? Perché la casa, l'anziano, è la sua ultima casa, la casa magari in cui ha cresciuto i suoi figli. Sì, diciamo che nell'anziano c'è una risposta di maggiore sofferenza rispetto a un distacco netto con un passato che rappresenta la parte importante in questa fase della vita. Per cui la risposta con l'anziano è il lavoro che si fa con l'anziano è di grandissima accoglienza e di grandissimo ascolto. C'è bisogno di sentire ricordi, di ripristinare un contatto con ciò che era in passato, perché in questo si ritrovi un passo verso il futuro. E quindi è importantissimo ricreare intorno a loro quegli elementi che sono punti di riferimento, un po' come accade anche per i ragazzi, adolescenti, e come è fondamentale per i bambini. Sottotenente, rispetto ad altre esperienze che lei ha vissuto in prima linea, che cosa ha imparato e che cosa le risulta difficile oggi all'Aquila per aiutare queste 200 persone che le sono state affidate? Diciamo che posso paragonare la vita in un campo a quella a bordo di un'unità navale. Diciamo che la complessità è molto legata alle relazioni, che sono qui più intense, più coinvolgenti, tanto per gli operatori del settore, i soccorritori, quanto per le persone che vivono nel campo. Quindi ciò che sembra più importante è stabilire un buon contatto umano, una comunicazione efficace, una presenza che si senta, e il fatto che le persone che sono nel campo possano sentire di contare sull'altro. L'elemento di base è sicuramente la fiducia reciproca. Reciproca. Grazie al sottotenente Cosima Capone, buon lavoro, un abbraccio grande. Buongiorno. Buona giornata. E torniamo in studio, ci aspetta da un po' Natale che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Natale. Buongiorno. Siamo qua, tutti per lei. Ecco, io niente, volevo esporre la domanda al professore. Io da un tempo da questa parte ho scoperto di avere una parte sotto il mento, lato sinistro, dove praticamente c'è una chiazza che non cresce più la barba. La mia domanda era se era il caso di preoccuparsi o no. E la cosa da cosa era dovuta, via. Grazie Natale. Allora, professor Girolomoni, Natale ha preferito lei, forse perché lei avendo la barba magari può, no? Dalle qualche barba. Lei ce l'aveva, adesso non ce l'ha più. Però quello che il signore espone è un caso di alopecia areata. Sono perdite di peli circoscritte? Sì. La malattia è molto comune, sì. Una condizione molto frequente nei maschi, colpisce spesso la barba di forma iniziale. Quando la chiazza è così, è bene andare da un dermatologo e farsi prescrivere una cura, perché le chiazze possono moltiplicarsi e può avere un andamento cronico recidivante, cioè andare via, ricomparire. Curandola, questo percorso si abbrevia ed è più benevolo. Quindi si vede questa chiazzetta priva di peli. Esatto, la cosa nei maschi viene nella barba, in certo. Altri casi può venire nel cuoio capelluto, in altre sedi corporee pelose. Quindi l'indicazione è fatevi vedere perché si può curare, per evitare che la situazione si allarghi, come si dice a macchia d'olio. Andiamo da Cesare, che ci chiama da Mantova. Buongiorno Cesare. Cesare. C'è un eco e Cesare è caduto, ma abbiamo Gianni che ci chiama da Palermo. Buongiorno. Buongiorno, desideravo parlare con il professore Girolomoni. Sì. Il problema è questo, io da qualche mese, periodicamente, a livello del viso ho una pelle chiara, praticamente mi vengono delle piccole macchiette rossastre rilevate, il diametro può essere un paio di millimetri, sì. Che nel tempo sembrano risolversi, però molto nel tempo, però alla fine resta una zona piana con un colorito un po' brunastro. Insomma, ma lasciano il segno, Gianni, è questo che ci vuole raccontare. Bene, bene, la sintesi è questa, sì. Allora, io la affiderei anche, Gianni, alla dottoressa Del Giglio. Dottoressa. Io non ho capito bene dove si trovano dove sul viso, queste... sul viso, all'inizio sono rossastre, la superficie in rilievo, poi diventano marroncine, poi se ne vanno ma lasciano questo segno. Ok, hanno delle crosticine sopra magari, non so. Gianni, non so se è ancora in... Crosticine? Certo, Gianni. No, alla fine cioè queste allora, non si risolvono in crosticine, si risolvono nel senso che si pianificano e poi residua un colorito leggermente brunastro, dico che sono piane. Verosimilmente c'è qualcosa di infiammatorio. Sì. Allora Gianni, la dottoressa Del Giglio dice molto probabilmente c'è qualche cosa di infiammatorio. Che poi diciamo lascia, esita questa colorazione, bisognerebbe, ecco, a maggior ragione ragione proprio in questo caso che il signore venisse valutato, perché il suo definire rosso una cosa potrebbe essere bruno per me, e quindi tutte le macchie appunto richiedono un'attenta valutazione da parte di un occhio esperto, ecco. Andiamo a Torino, ci chiama Massimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, 51 anni, dalla nascita con un angioma molto evidente sulla parte mediana destra del viso. Sì. E poi sulla parte mediana di tutto il corpo, sempre parte destra, in sì. maniera un po' più attenuata. Sì. Stanco di vedermi così, da 4 anni mi reco con certa regolarità 3-4 volte all'anno a Milano con un, per toglierlo con un laser. Sì, e che risultati sta ottenendo, Massimo? All'inizio ottimi, nel senso che per più di un anno a volte non ritornavano di nuovo con quel colore vinaccia, chiamiamolo vinaccia annacquata. Sì. Adesso ultimamente vedo che invece c'è una maggiore insistenza, sarà l'età che avanza probabilmente, e dopo 3-4 mesi il volto ritorna. C'è per caso qualcos'altro, qualche novità che può dare delle buone speranze? Sì. Che usa questo laser mi dice essere molto aggiornato sulle nuove tecnologie, su questi laser che vengono di solito partoriti in America, tant'è che lo stesso laser a Torino nessuno lo usa. Grazie Massimo. Professor Girolomoni. Questo è quel tipo di malformazione che dicevamo all'inizio, vengono definiti spesso angiomi, in realtà sono malformazioni vascolari. Purtroppo è un problema serio quello del signore, quello che sta usando credo che sia un laser colorato, è quello che si può fare di massimo in queste lesioni. Purtroppo nel tempo qualche volta l'efficacia si riduce, perché maturando la lesione diventa un po' più resistente, assume sempre di più un colore più intenso. In questi casi la cosa importante quando si vede, adesso il signore ormai ha una certa età, nei bambini, escludere che sia associato a simili lesioni all'interno. Sì. Perché quando c'è nel volto, per esempio, a volte ci possono essere lesioni simili sulle meningi o all'interno del cervello, questo, o nell'occhio, sì. Quindi questo nel bambino va escluso, nell'adulto ormai il signore chiaramente... Certo, questo rischio non lo corre più e lo dimostra, però questo laser che funzionano ma spesso non sono definitivi, possiamo dire così. Non sono definitivi. Di nuovo c'è qualcosa? Professore, di nuovo c'è qualcosa? No. No. No. Speriamo che la ricerca vada avanti. Dottoressa Del Giglio, abbiamo parlato di laser. Per le macchie, quelle che noi chiamiamo dell'età, le macchie che ci segnano la pelle per delle esposizioni al sole un po' troppo azzardate, senza protezione, esistono dei laser capaci di cancellarle? Ne abbiamo già accennato in inizio di puntata, ma i messaggi delle nostre ascoltatrici sono tanti a riguardo, soprattutto le macchie che si presentano sulle mani e sul viso, non a caso le parti più esposte, che quindi sono molto più visibili di altre che tendiamo a nascondere. Certo, esistono diversi tipi di laser. Premetto una cosa, cancellare è una parola molto impegnativa. Che però, bisogna cancellare, quindi. È una parola impegnativa, però con l'obiettivo di migliorare nettamente questa cosa, queste iperpigmentazioni, esistono vari tipi di laser che hanno diverse lunghezze d'onda. Hanno anche diversi nomi, c'è il Q-switch, c'è l'alessandrite, c'è l'erbium, ce ne sono di vari tipi. C'è anche la luce pulsata, che non è un vero e proprio laser, ma che comunque ha un ruolo molto positivo in questo. È fondamentale valutare il tipo di iperpigmentazione, quindi il tipo di macchia che c'è, sì. E sulla base del tipo di macchia è giusto attuare diciamo il trattamento migliore, premettendo che comunque la protezione nei confronti del sole deve essere fondamentale. Quindi c'è un periodo nell'anno in cui è meglio fare questo tipo di trattamenti, quindi nel periodo invernale, proprio perché la paziente non deve poi esporsi al sole, sì. Perché il sole potrebbe ulteriormente peggiorare non solo le macchie esistenti, ma anche quello che è l'effetto del laser sulle macchie, una buona abitudine di utilizzare sempre schermanti solari al fine di prevenire un ulteriore peggioramento delle macchie che non sono state trattate. Quindi, dottoressa Del Giglio, questo vuol dire che tra poco la stagione del laser termina, perché inizia sì. Tanto questo lo sottolineiamo. diciamo. Sì. Mm. Io credo che ormai la stagione del laser sia giunta a conclusione, come anche di tutti quei trattamenti mirati proprio a determinare un'esfoliazione, una riduzione delle macchie, eccetera. Andiamo a Udine, ci aspetta Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno, innanzitutto complimenti. Volevo fare una domanda. Io ho mio figlio che ha 3 anni, sì? E da circa un anno gli è comparso sul palmo della mano, a livello della base delle dita, per capirsi, sì? un neo che ha la forma di una punta di una penna, un pelino un po' più grande. Sì. A punta, non è una forma regolare, quindi quindi è in rilievo, scusi Antonio, quindi in rilievo, piccolo ma in rilievo? No, non è in rilievo, è piatto. Però ha la forma di una punta di una penna. Sì. È il caso di farlo vedere o di aspettare? Non si è modificata? No, è nato dal giorno della mattina, è venuto fuori ed è rimasta lì? Sì, è rimasta lì. Professor Girolamoni, lo porterebbe a vedere questo bambino oppure no? Cioè, è difficile dire di no. Però non perché lei fa il dermatologo, no, immagino. No, poi perché non si sa mai, ma nel palmo della mano, nel piante dei piedi, dove la pelle è spessa, sì? I nei spesso assumono una forma lanceolata, sì. Quindi una forma che ricorda la punta di una penna. Sì. Quindi è abbastanza normale in quella sede che siano così. Regolare non significa necessariamente geometricamente tondo, ma regolare nel senso di essere simmetrico. Se uno lo taglia in due, sì? Le due parti sono uno specchio uno dell'altra. Io volevo chiudere la nostra trasmissione, perché poi dedicheremo una puntata ad hoc sui nei, aspettatevela, circa maggio ne parleremo, parleremo anche di protezione. Professor Girolamoni, da che età è bene iniziare a farsi controllare i nei? Se uno ha una situazione relativamente normale, direi dopo i 30 anni. Dopo i 30 anni, ok. Tenendo presente che il melanoma, che è la bestia verso il quale stiamo, sì? combattendo, è rarissima nei bambini e negli adolescenti. Ok. Comincia a essere di una certa rilevanza intorno ai 30 anni. Quindi a partire dai 30, se non si hanno naturalmente già casi, esatto, in famiglia, se non si hanno bevi giganti, certo. se non si ha una nevosità estrema di avere tantissimi nei, va bene. Ma sui nei torneremo a parlarne. Intanto vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio la dottoressa Del Giglio, il professor Girolamoni, occhio quindi alle macchie, soprattutto ai nei che si modificano. Questo è il messaggio che ci portiamo via dalla trasmissione di oggi. Grazie, un saluto a Verona allora. Grazie mille. Grazie, arrivederci. E adesso entriamo nello spazio dedicato alla remise en forme primaverile. In linea con noi il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in igiene e medicina preventiva, che ogni giorno con i suoi rimedi naturali ci aiuta a prepararci di buon passo all'arrivo della bella stagione. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Dottore, per oggi che cosa ci suggerisce, che cosa ci propone di salutare? Oggi vi propongo il rosmarino. Oh, magnifico, che... anche profumato. Molto profumato, infatti è ricco di un olio essenziale molto caratteristico. Però il rosmarino, oltre ad avere ovviamente alcune proprietà che si usano in cucina, in fitoterapia presenta delle peculiarità che sono utilissime ad affrontare la stagione primaverile, in quanto è un ottimo stimolante nervino, quindi migliora la performance psicofisica, migliora la memoria ed è utilissimo per quelle persone che adesso, nell'arrivare del caldo, soffrono di ipotensione o hanno anche questa tendenza proprio alle lipotimie. Poi va molto bene anche, in quanto il rosmarino stimola la funzionalità epatobiliare, quindi del fegato e della cistifellea, anche in quelle persone che soprattutto dopo il pasto hanno questo affaticamento, questa tendenza al sonnecchiamento, quando stimolando la funzionalità e con il suo effetto ovviamente tonico, aiuta ad affrontare anche la seconda parte della giornata. Dottor Temporin, mi scusi, essendo il rosmarino un tonico, bisognerà prenderlo in momenti particolari della giornata, immagino non la sera. Assolutamente d'accordo con lei, va evitato la sera perché è un tonico, quindi benissimo al mattino e eccezionale nel primo pomeriggio dopo pranzo. C'è da dire poi che anche in fitocosmetica può essere utilizzato, si può ricercare nelle lozioni, soprattutto per chi soffre di capelli grassi, capelli untuosi o per chi ha la tendenza alla caduta dei capelli. Frizionare queste lozioni a base di rosmarino sono un ottimo aiuto. Mentre dottor Temporin, per chi volesse approfittare del rosmarino come tonico, come lo deve ricercare? Sotto che formula? Allora, la formula migliore e la più assimilabile è quella in soluzione idrogliceroalcolica, quindi in una diluizione 1 a 10, basta chiedere il gemmo derivato di questa pianta, si trova tranquillamente sia in farmacia o nelle migliori erboristerie. Consiglio sempre di iniziare con 15 goccine due volte al giorno, aumentando poi secondo necessità. Dottor Temporin, controindicazioni per il rosmarino? Controindicazioni ovviamente le persone che soffrono di ipertensione, le persone che soffrono di insonnia in quanto non va assunto nella fase serale e quindi in quelle persone che in cui non c'è bisogno di uno stimolo ovviamente ulteriore. Dottore, noi ci sentiamo domani. A domani, Nicoletta. Intanto buona giornata a lei, buona giornata a chi ci ha ascoltato, appuntamento domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.